Nossa, nossa, assim você me mata. Tommasino il gatto, che è ereditato 10 milioni di euro, ha comprato il Cosenza e ora cerca un grande allenatore dopo aver esonerato Enzo Patania. No, sono il gatto, super telegattone. Massimo Maneggio, come ha detto Stamba, non lo voglio, miau. Enrico, questo cazzo di chi cazzo. Miau. Maurizio, sei vecchio, su MTV non ti posso mandare Super Classifica Show. Ciao, ho da fare perché sta arrivando l'allenatore della Juve. Vediamo cosa vuole. Scusa, ciao. Prego. Prego. Buonasera, buonasera. Buonasera, permesso. Prego, miau. Piacere, Andrew Wonder, piacere. Ho lasciato la squadra a Roma, ancora che stavano sbondando di palate la Roma. Mi sono potuto permettere di fare un viaggio con low cost da Roma a Cosenza. Boom, pensa sia la Roma che sta vincendo, miau. Questa è un'ipotesi alquanto improbabile, ma comunque non diciamo cazzate. Andiamo avanti con il nostro discorso. Ma pure uno pareggio, andiamo avanti. Buonasera Tommaso, buonasera. A cosa devo questo onore? Voglio fare allenatore del Cosenza! Veramente? Sì! Al Cosenza sono sbunnato di sordi! L'avevo sentito, il Cosenza. Mi hanno fatto ereditare tanti soldi! Un saluto. Attimo che chiamo la mia carabiniere! Angela, favolosa cubista, ci fai! Ci fai due caffè? Vabbè. Senza zucchero, già. House. Che gusto è House? Non ti preoccupare. Mi immagino. Parlami dei progetti se ti affido la squadra. Ma innanzitutto alla numero uno. Alla numero uno deve tornare la maglia rosso e blu. Numero uno voglio la maglia 2001-2002, quella provincia di Cosenza, no? Li voglio anche qualche giocatore nello staff tecnico, anche Paquito se vogliamo, anche Mimmo Di Sove, Guzzo, Pandanelli. Ma tu! No, vabbè, questo come staff tecnico dietro la panchina. Sto dicendo ancora i collaboratori tecnici. Data la certa età 40-45 anni, poi ci accorderemo anche sulla campagna di acquisti. E chi vorrebbe che le prenda la numero 2? Innanzitutto voglio il numero 1, poi il numero 2 sarà il terzino. Il numero 1 voglio Peter Schmeichel, poi voglio Sernicek e voglio Adriano Zangopé, quello che faceva la riserva a Marco Ballotta, quello che ha giocato 20 partite col Modena. E cosa ne pensi di qualche campione di campioni? Ma Bertaccini se l'è già comprato il Bologna, visto che hanno sparato ad Agliardi l'altro giorno. Cullo in difesa ti piace? No, Cullo c'ha un curriculum di troppo rispetto che a Cosenza non sarebbe in grado di reggerlo. Ma lo straniero, chi ti può interessare? Bordignon? No, Bordignone è un discorso paradattico. Bordignone io lo vedo come pazienza. Diciamo, lo vedo gli ultimi 20 minuti e poi se sono costretto lo faccio giocare. Devo mettere dei giocatori scarti della Serie A, scarti di polo. Voglio mettere Motta che come porta Gatorade quest'anno se la sta cavando anche bene. Credo che al San Vito può preparare anche le aranciate con l'acqua, quelle famose di quando giocherà anzi uno degli attori, insomma. Ma parliamo degli obiettivi! In quale posto in classifica della Hit Parade possiamo arrivare? Ma Antonio Conte miau, Antonio Conte è un lottatore nato, c'ho la figlia Vittoria e voglio un Cosenza provinciale. Maruzzo Kogan come massaggiatore andrebbe anche bene, è uno che spreciutta gli avversari, diciamo. Più che degli obiettivi, ancora stavo dicendo la formazione, giusto? Sì. Vorrei riprendere la tua formazione ideale! Ma io vorrei giocare a tre sfruttando le ripartenze e copiando anche Mazzarri, no? Fare una difesa a tre tipo Domorò, Roque Junior e Boomsong. Soprattutto Boomsong, che ci tengo a salutarlo anche. Giovanni e Nicola chiaramente saranno le prime due riserve. E poi penso a qualche prodotto locale, tipo andando a prendere qualche giocatore dalla Morrone, voglio prendere qualche giocatore dall'Olimpic, dalla Luzzese, dal Fagnano e anche qualcuno copiandolo dalla Valle dell'Esero, se possibile. poi voglio prendere un centrocampista che è solo omonimo di una grande cretina, cioè Morrone, colui che ha venduto una macchina a uno che stava a Ponderati, ma questo lo sappiamo solo noi centrocampisti. Già abbiamo fatto 5 giocatori, poi ce ne mancano altri. Aspetta, l'attacco ancora non si fa, deve avere almeno Solari, Blashard e O'Neill. Questi me li devi mantenere, eh? Sì, Paolo Sosa. Il connazionale Dimas. Ma Dimas era un buon tornante, diciamo, rappresenta l'anima provinciale della Juventus. È un bel Montero che picchia. Ma Montero è un giocatore troppo giovane per l'ambizione di Cosenza, un giocatore che non reggerebbe la piazza. Lascia stare Marchisio, che è colui che... Purtroppo, signor Conte, miau, una sua richiesta non è possibile espletarla, ovvero Michele Padovano, in quanto è in stato di fermo. Ma Michele Padovano sarebbe stata la punta di diamante di questa squadra, insomma, ma penso che in attacco potremmo anche... No, non è che qua i tifosi possono intervenire via chat e mandare subito le proposte. No, vabbè, lascia stare. Penso a un attacco tipo Ronaldo, Giorca F e Francesco e Zamorano, sì. No, questi tre no, questi tre no. Ma per Salas! No, Salas no, io vorrei fare un attacco tipo figurine Panini 98-99, Muzzi, Paolino Poggio e Marzia Moroso. Guardi, però io le pongo una sola miau condizione, cioè... ovvero come suo secondo Valderrama. Ma Valderrama cerca o Gita o Valderrama, o un debito verso la Colombia di cuore. Quindi lei deve scegliere uno dei due. Ma sarebbero entrambi a disagio con il sottoscritto, perché sarebbero a disagio con questi capelli naturali, quindi sarebbero comunque due sottoposti che giustamente ma Kanzukur è un giocatore che non si sposerebbe con il modello tattico. Già c'ho Amaur già come uomo del come uomo mensa, ci ho messo Amauri. Va bene, ritorni all'Olimpico, le faremo sapere. Ah, non abbiamo parlato comunque di ingaggio. Ma non ti preoccupare, tu firma a caso praline, capo pure, ma vedo io. Firma in bianco? In bianco, 12 mio. Milioni di euro poi. Figati del gatto, che il gatto ha 9 vite e ti fa sopravvivere. Sì, ma io prima voglio sopravvivere con la grande Juventus, vinceremo prima campionato, poi Coppa Italia, poi Coppa Campioni, poi... Supercoppa, Coppa Intercontinentale, solo al nonno. Sì, mentre... Vabbè, ferma e non ti preoccupare. Vabbè, io scrivo 12 milioni di euro. No, 12 mila lire. No, 12 a Cosenza milioni. C'è la lira. Ma a Cosenza, allora, in queste condizioni devo riflettere. Mi hanno mandato già anche l'iPhone, che la Juventus ci sta ancora sbunnando. Io firmo 12. Bene, sono bazzecco, le firme che tanto paga Margheritone, paga. Sì, tanto tu a 10 milioni sei fermato, grazie. Grazie, arrivederci Super Telecattone, ciao. Miau! Miau, miau, miau. Caro, ti sono sui saponati.